Abbiamo Bruno dell'associazione Iabasta che ci racconta quali sono state le ultime iniziative a Milano per quanto riguarda i migranti, e poi continueremo a parlare un po' con lui sul percorso delle case di plastica e su quanto è successo il 19 marzo, il corteo che è arrivato fino al CPT di Via Corelli. Ciao a tutti. Bene, ieri è stata una giornata molto significativa perché come Action Milano, Iabasta e altri compagni e compagne abbiamo organizzato una casa a cielo aperto in Piazza del Duomo per portare all'attenzione pubblica il dramma che stanno vivendo in questo momento 15.000 famiglie là solo a Milano e 100.000 persone in tutta Italia, che è la fine del blocco degli sfratti che da oggi, 31 marzo del 2005, dovrebbe colpire tutte queste persone. È stato un presidio molto significativo, molto partecipato, con i migranti, uomini, donne e bambini occupanti delle case di plastica di Sesto San Giovanni, in via Catania, da un anno, e nel quale abbiamo riscontrato moltissima solidarietà da parte dei uomini e donne di Milano che si sono fermati a mangiare con noi, perché questi migranti hanno portato la loro cucina in piazza, e anche solidarizzando rispetto al fatto che è un dramma che tocca molto trasversale, che tocca tutti, che tocca un sacco di persone. Ovviamente la situazione nel dramma è ancora più nel dramma rispetto ai migranti, perché la questione della casa è stata al centro dell'attenzione anche dal punto di vista delle leggi che si sono promulgate ultimamente, soprattutto a livello del Consiglio regionale, nel quale è passata questa, o comunque sta cercando di passare questa famigerata legge della Lega, che richiede che le case, le poche case che ci sono e quelle che diciamo sul mercato, vengano assegnate a persone che sono residenti in Lombardia da 10 anni, con tutta una serie di condizioni che fanno riferimento praticamente alla purezza della razza, e ovviamente lasciando fuori di questo tipo di diritto centinaia e centinaia di famiglie, migranti e non solo. Questo dramma ovviamente tocca anche gli anziani, gli studenti, i lavoratori precari che in questo momento con un reddito basso non riescono più a pagare neanche l'affitto delle case popolari, e cercando di costruire dei comitati di zona, di quartiere, nel quale questa forma di auto-organizzazione possa produrre altri risultati. Sì, Bruno, con te volevamo un attimo anche fare il punto appunto sulle case di plastica. Un anno di occupazione, un anno di lotte, come sta andando? Guarda, allora, rispetto alla situazione diciamo interna e ovviamente del rapporto con il quartiere, non potevamo chiedere di meglio. Si è coronato un po' un sogno, quello di una comunità migranti auto-organizzata, una comunità migranti che ha proposto una forma nuova di riappropriarsi dei diritti. Cioè, l'occupazione è partita come una situazione emergenziale, dare la casa a 22 famiglie sudamericane con 16 bambini che erano stati praticamente costretti a fuggire nel momento in cui il comune di Milano, insieme con le ruspe, insieme con la forza pubblica, sono arrivati a distruggere le loro baracche in Piazza Greco. Con queste persone si è fatto un percorso molto significativo, molto interessante di organizzazione, auto-organizzazione di questa comunità, di questo gruppo che ha prodotto tantissime iniziative fino al momento di arrivare all'occupazione della casa. All'interno di questa comunità si sono creati delle bellissime forme di lavoro e soprattutto legate a questo progetto di autorecupero, cioè di autorestrutturazione delle case di plastica, sulle quali già si sta presentando un progetto ufficiale alla Regione Lombardia, in contrapposizione all'assurdità del progetto presentato appunto dalla Regione stessa, che è quello dell'abbattimento di 22 appartamenti che erano in stato di degrado totale, abbandonati per 10 anni, con l'impossibilità di assegnarli per tutta una serie di situazioni, diciamo, burocratiche, e la costruzione di un nuovo palazzo che non andrebbe a coprire assolutamente i bisogni abitativi, perché propone di costruire soltanto 10 appartamenti in più, a fronte nella sola Sesto San Giovanni di una domanda di 600 alloggi. E noi abbiamo fatto questo lavoro di organizzare una cooperativa all'interno di muratori, in Bianchini, tutta la, diciamo, i servizi legati alla costruzione. Stiamo lavorando per ultimare il progetto ufficiale di autorecupero e a partire da questo confrontarci con l'amministrazione, con l'ALER e con ovviamente la regione. E in più, sì, a questa cosa qua, sì, che è già, diciamo, un lavoro molto importante, si somma l'apertura domenica di un asilo nido autogestito delle mamme migranti, perché abbiamo rilevato un bisogno fondamentale nella città di Sesto San Giovanni, come in tutte le città praticamente d'Italia, nelle quali molte mamme si trovano, a partire della riforma Moratti, a partire dei tagli alle scuole, a partire di tutta questa serie di situazioni, di dinamiche, di servizi, nell'impossibilità per esempio di lavorare o di svolgere altri tipi di situazione, perché i figli piccoli non sanno dove lasciarli. Noi proponiamo questo servizio aperto a tutti, gratuito, con degli educatori, dei compagni e le compagne che hanno lavorato con i minori, con i bambini in particolare, da tanto tempo, con una forma di condivisione del tempo, di turnamento e soprattutto di diciamo socializzazione e di arricchimento culturale. E Bruno, l'ultima cosa, il 19 marzo abbiamo visto una grande manifestazione a Milano, sia per ricordare Dax, ma che ha avuto appunto come elemento centrale il corteo che arrivasse in via Corelli, e quindi un significato di portare questo corteo sulle lotte dei migranti. Tu sei entrato in via Corelli, ci puoi dire le tue impressioni, insomma, cosa... Anche te, Enrica, sei entrata più di una volta e sai che cosa si prova quando si esce dai nuovi lager, dei campi di concentramento moderni. Ma la sensazione è sempre la stessa, è una sensazione di impotenza davanti a una situazione che ha prodotto già una suefazione, e anche legata, diciamo, una forma intelligente di gestione di questi CPT, perché ovviamente essendo stati abbelliti, essendo stati ricostruiti a nuovi e non più con le gabbie che facevano un impatto visivo molto forte, con un trattamento all'interno apparentemente o comunque che filtra l'esterno di centro di accoglienza, si maschera dietro questo come due cose fondamentali. Prima è la barbarie del principio dell'esistenza dei CPT, per cui l'internamento di esseri umani per una sanzione amministrativa, che è quella di non avere i documenti, in attesa di una deportazione quasi certa, addirittura deportazioni di massa vietati di qualsiasi tipo di convenzione, di qualsiasi legge internazionale, e che comunque sono abbastanza quotidiane, e B, le violazioni sistematiche di diritti umani all'interno, per cui interventi mascherati di controllo della, diciamo, dell'azione pubblica all'interno dei CPT, pestaggi soprattutto nel momento nel quale le persone vengono portate a imbarcarsi, e ovviamente si sottrae di questa di questa regola, di questa legge, e con l'intervento ovviamente ancora un'altra volta, se fosse bisogno di dirlo, della Croce Rossa complice non soltanto della gestione dei CPT, sennò anche di interventi molto repressivi, molto forti, come per esempio è successo lunedì scorso le quattro persone che noi avevamo intervistato all'interno del centro, che avevano denunciato pestaggi da parte della polizia nel momento riportarli al centro dopo che era fallita l'operazione d'imbarco, per cui pesantissimi pestaggi con addirittura minacce di morte, tutto il reperto quotidiano della polizia. E queste persone domenica sera hanno mangiato e due persone siamo riusciti a contattarle attraverso il loro avvocato lunedì, che si erano svegliati in Ecuador, addormentati, e si erano proprio svegliati in Ecuador, addirittura con uno di queste persone, che non è neanche ecuatoregno, per cui ha dovuto anche subire il fatto di essere in un paese che non è neanche il suo. Che dire, riaffermiamo ancora un'altra volta la volontà di chiudere questi CPT, di chiudere questi lager, e anche far emergere delle situazioni allucinanti che succedono all'interno. Sicuramente un passaggio molto interessante della manifestazione del 19 è che è stata una manifestazione per Milano molto atipica, perché era veramente partecipata dai migranti auto-organizzati, migranti in lotta, migranti con determinati, con un bagaglio politico forte, e soprattutto anche migranti antifascisti, cioè migranti che hanno saldato la loro protesta con la protesta dei compagni e dei compagni di Max, e con la chiara determinazione di che i CPT sono un ricordo, sono una realtà che ricorda il fascismo e che sono assolutamente da chiudere. Ti ringraziamo tantissimo, Bruno.